centro commerciale, ho visto un tizio proprio preso male, aveva qualche cosa per la mente, qualche gesto estremo ed eclatante, ma darsi pace certo non riusciva, costretto da una moglie alla deriva, tenendosi da soffocarsi con la borsa della del centro commerciale si affretta per l'offerta funerale, acquista un prodotto allettante sempre di tendenza cattivante, la gente senza anima esclusiva, attenta a mi plastica ossessiva, fottendosi da sola e male per il resto del Vaffanculo, va.